11.35 italiana, la tua radio sull'isola. Siamo in diretta, Stefano Munari, Alex Martinelli, in diretta fino alle 13 in questo programma senza nome. Abbiamo un ospite, attenzione, vai Alex. Programma senza nome, oggi invece ospita un grande nome del nostro mestiere, alla fine dei conti, della voce, del doppiaggio, una dialoghista. Cos'è una dialoghista? Daniele Altomonte da Roma. Buongiorno, una dialoghista che può essere anche uomo, comunque un dialoghista, la definizione completa è dialoghista adattatore cinetelevisivo, significa che è l'autore dell'adattamento in italiano dei dialoghi per il doppiaggio, sono quella che fa parlare i doppiatori, insomma. Ecco, quindi se questo doppiaggio italiano che ha fatto storia e che continua a fare storia, a essere un'eccellenza italiana nel mondo, è fatto così bene, si deve anche primariamente bellissima come definizione, sì te la passo dai, ecco, al lavoro di un dialoghista che è capace praticamente di adattare la lunghezza al millesimo delle frasi che vengono dette in un'altra lingua. Sì, apro una piccolissima parentesi tecnica, noi dobbiamo stare attenti e badare alla, non solo alla trasposizione linguistica e culturale, quella a cui non si pensa, perché si pensa subito alla lunghezza delle battute, al sync, il famoso sync, ma c'è la trasposizione culturale da tenere assolutamente in conto, perché è la cosa più complicata, devi far capire di che cosa si sta parlando, non devi permettere che lo spettatore seduto a casa propria o al cinema si chieda che cavolo stanno dicendo, no, assolutamente no, bisogna dar modo di fruire di quello che si vede, di godere di quello che si sente e non capire che è doppiato. In questo i nostri grandi doppiatori, bravissimi attori, sono maestri, appunto, come hai già accennato tu, il doppiaggio in Italia credo che abbia 100 anni più o meno, sì. Il lavoro del dialoghista non si conosce, è un lavoro di quelli in ombra, ma è fondamentale ed è alla base del doppiaggio, è la prima fase del doppiaggio. Io praticamente scrivo e confeziono il copione che utilizzano i doppiatori in sala di doppiaggio, per cui devo, ecco la parentesi tecnica, devo badare alla lunghezza, al ritmo, a delle battute e a tutte le varie cesure che poi tra l'altro in questo periodo storico gli attori recitano in una maniera tra virgolette nuova, che prima non se ci fate caso ora che ve lo dico, hanno tutte delle micropause terrificanti per noi dialoghisti, parlano in questo modo e tu come accidenti fai a confezionare una battuta italiana? Già è complicato perché parliamo di prodotti quasi sempre che vengono dagli Stati Uniti, per cui già è complicato. Quindi slang, poi l'inglese americano è molto molto sintetico, ha tutta un'altra costruzione della battuta eccetera, poi se tu mi vai a recitare in quel modo mi uccidi. Ecco, senti, è un lavoro molto complesso. Facci qualche esempio di serie e di produzioni famose che hai curato tu in Italia. Allora, le cose vecchie, perché io sono vecchia e si parla di cose. Allora, parliamo della serie che ha fatto la storia, che dalla quale diciamo che ha fatto. Ha creato uno spartiacque. Ecco. Dopo IAR, Medici in Prima Linea, non è più stato uguale, è cambiato tutto nel mondo dei telefilm. È stata la prima serie in cui è stata usata la Steadicam. E per cui venivi accompagnato nei set, cioè delle immagini, sempre con questi piano sequenza, possiamo definirli addirittura così in maniera cinematografica, venivi accompagnato in tutte le scene. Se tu adesso ti prendi una qualsiasi puntata di IAR non ci fai caso, perché da IAR in poi la Steadicam è stata usata in tutte le altre serie. E IAR l'hai curata tu, no? Sì, eravamo in tre all'inizio, e però poi? Per molte, molte volte. Poi Cold Case, Senza Traccia, queste sono quelle vecchie. Arrivando ai giorni nostri, io in questo momento sto lavorando a Westworld, terza stagione. e Absentia, che è un'altra serie che consiglio perché è molto bella, trovate su Amazon Prime. Però Westworld, devo dire che, a quanto dicono, no, devo dire io, lo dicono i critici, ha preso il posto nella HBO, ha preso il posto di Game of Thrones, dicono. Io non voglio fare la critica televisiva, perché non ho il mio mestiere, io parlo soltanto per gusto mio personale. Senti, noi da qui ti facciamo i nostri migliori auguri, naturalmente, perché questa tua carriera importante e anche difficile, come abbiamo potuto vedere, continui a lungo, perché hai dato veramente un grande contributo. Tu come stai vivendo questo periodo? Dal punto di vista lavorativo non mi ha cambiato nulla, perché i dialoghisti lavorano da casa, è sempre stato così, per cui sono abituata alle full immersion, sono abituata alla vita di clausura che ti costringe a fare questo mestiere, è ovvio che poi non puoi uscire di casa, se non per necessità, e quello è pesante, perché comunque l'uscitina con qualcuno, poi non ho neanche un cane, capito? Io regalate un cane a Daniela. No, una mia amica mi presterà il cane, e non sto scherzando. La mia amica Roberta ha detto: ne ho due, se ne presto uno e andiamo insieme a portare i cani. Senti, Daniela, purtroppo i tempi radiofonici ci impongono di salutarti. Grazie della chiacchierata, ragazzi. Grazie a te e di averci dato questo spazio così interessante, da anche chiaramente da spiegare ai nostri ascoltatori un lavoro che la gente non conosce. Grazie mille. Esatto, ciao Mallorca! Ciao Daniela, e noi andiamo in pubblicità un momento e ritorniamo fra poco con altra musica su Italiana.